ancora in posto di palla, sempre a pallarino, il cross gira dentro l'area per il colpo di testa di Bia Biani che prolunga, ma la palla lunga da parte di Agassi, non riesce a recuperare, intercetta Paletta, stavolta aveva un senso, recuperato da Agostini, Agostini per Nainggolan, Nainggolan verso destra contro il contropiede. Guarane, maka palelo itu dia aku sekarang kau belajar nama. La controffensiva no, chiude molto bene il Dal, mandando in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà per il Parkman, versione di cross di Pisano, troppo scontato, ribattuta ancora al Parma, con lo stop di Dal, fa soffiare il pallone con piede mezzo, modello quello di prima, mi chiedo perché non robusto ai danni invariati, il pallone in fallo laterale con il Dal che con la mimica manda quel paese dell'arbitro per il precedente intervento col piede teso su di lui che gli ha portato via il percorso, gira volta di corso, la tenta di partire, viene trattenuto dall'avversario, intervento arbitrale, calcio di punizione, protesta in modo plateale galloppa, arbitro di capitano con cui ha avuto il contatto e assegna il calcio di punizione ai danni, sta portando ora. Arbitro però non aveva ancora fischiato la punizione è da ripetere, ecco che adesso arbitro si allontana, non fischia ancora, adesso lo fa a vantaggio di Nainggolan, Nainggolan a Biondini, Ferrando Rossini, cerca nuovamente Nainggolan ad Ekdal, Ekdal che sta per colpo, duello con Galloppa, scattato Pisano, non ha colto l'attimo pallone, tenta di andare via, perde il rimpallo, il rilancio di Paletta nella zona di Pallarino, la chiusura di Ariado, pallone sul laterale da Gnarri. Aspetta di Babbo, lo punta, ancora di Babbo, per vicino all'area, va il cross, non capisce, è controffensiva da parte del Parma, compagnato una mossa da judo da Bia Biani, arbitro che interviene per assegnare il calcio di punizione che verrà battuto una decina di metri al di là della linea cebraica, lo pallone per poterlo calciare, lo riceve da Ariado, viene chiamato nel frattempo. Ma tu sei? Un po' tu sei, papalò. Ah, da Gian Antonio Grotte, ci sei? Tutto all'indrio, prezzati che vanno. Cattare di crebavere, crebavere che vanno. Dile di chi non vorrà che mai sotto non guanno, e ne hai il cirgino. Avrò che venire, ma avrò il cirgino. Passi. Buonasera, chi sei comunque, Gio Maria? Buonasera Gio Maria, mi sta ascoltando la partita. Perché ho chiamato a Focaro, non mi sono sbagliato, non ha chiesto, ho chiamato a Cazzo. Beppe, come sono queste partite? Il Cagliari e il Parma, ancora 0-0 sono. E ancora, ancora presto. Che altro c'è? Non c'è nessuno, penso. Fabbo, dai, aspettiamo. Buona partita, allora. Io mi sto guardando un film, là. Tanti scelte avanti tu. Cappa, secondo tempo, adesso fra un po' quasi finito. Ciao, domani, dai, ci sentiamo. Già si sente, sì. Ehi, e come si sente? Già si sente. D'accordo, va bene. Ciao Giovanni. Hola. Prova. Avanti il fischio. E beh, sono così. Pretendi. Avanti il fischio. Aspetta, forse devo per Ola. Forse ne... vabbè, ciao, ci sentiamo. Passiamo indietro. Ma è prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, prova, prova, prova. Prova, mi ascolti? Prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, mi ascolti? Tappa. Prova, prova, 1, 2, 3, prova. Siamo noi cose. Prova, prova, 1, 2, 3, prova. Prova, prova, prova. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova, prova, 1, 2, 3, prova. Voilà. Prova, prova, 1, 2, 3, prova. Prova, prova, prova, prova. Prova, prova, 1, 2, 3, prova. Hola, hola, hola, hola. Prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ora. Hola, hola, hola. Hola, hola. E qualcuno sul canale 10? Cappa. E chi è che avanti? Sono io, John Marie. Oi. Buonasera. E le provando stai? Sto provando questo cavolo d'apparato che mi si è bruciato uno e ne ho agganciato un altro. Speriamo che mi ascolti qualcuno. Ah, va bene, va bene. Lo vedi, sì, la radio è pulitissima. Pulita, chiara, bella e limpida. Ehi, ma questo apparato non è molto felice. È un apparato vecchio e adesso vediamo un po'. Lo sto provando, quell'altro è professionale, si è bruciato purtroppo. Cosa è successo? Niente, è partito il finale di T. In ricezione è a posto, in arrivo. In T c'è niente. La trasmissione è partita. Ah, quel finale costano, Costano, però non lo so. Aspetta, scusi un attimino, che c'è un telefono, un attimino che sta chiudendo, solo un istante. Fa bene l'acqua, perché se lo fa adesso dopo non lo fa più dal mese entrante, che Vittuccia la lasciava fare. L'importante è che non faccia danno, quella è la cosa più importante, capito? Sì, quello sì, però se continua con questa roba qui così fa danno nel senso che quando piove così violenta il terreno non fa in tempo ad assumerla e allora scorre e lo scorrimento pure procura quelle cose che dici tu, faranno naturalmente, e quando è lenta a mano la sorge via, quando cade così è lì che succedono le alluvioni, cadono proprio temporali paurosi e fanno danno, è chiaro. È brutto, perché poi quando fa questi tempi del genere è molto brutto, poi secondo dove ti trovi uno, si trova uno, sono brutti, molto brutti, pericolosi, per cui noi siamo tranquilli là. Ma qua non lo sta facendo, strano però, perché sta facendo, ma arriverà anche qua. Guarda, io sono zona Monteoro e c'è una persona e sta stesso, sta piovendo di brutto. Io c'è una freccia che la faccio sentire. Ah, è una cosa pazzesca la cosa che sto facendo qua. Brutta, violenta. forse uno volano che magari è passato qua, perché sopra di me è nero, bello compatto. No, ma il danno, bene o male, nelle circostanze a Sassari, siamo tutti collinosi, quindi la pertenenza c'è qualche punto un po' brutto verso la Mercedes, lì può fare qualche allagamento, voi di per sé danno molto non lo può fare, perché Sassari è messa un po' collinosa, quindi di certo. Ma deve cadere il sabato, hai visto cosa succede, magari noi non abbiamo avuto problemi, nell'Urese neanche, però nella zona cadericana, che è pianeggiante, è un po' fortosa, i problemi sono lì. E infatti, perché tutto pianeggiante, allora l'acqua non è che scorre direttamente dove deve scorre, ma vicino. In tuffa, poi non essendo anche puliti i punti dove scorre l'acqua, allora lì si accumula e scopre tutto e lì... E lì è che succede il macello, perché c'è fuori e poi a Ma, speriamo di no, speriamo che succeda qui come è successo di accoglio a tutta la carica, l'anno scorso, due anni fa, per carità, ne ha fatto poco danno. Ancora poverini sono così? Sono così perché non hanno protestato bene, poveracci, io si capiscono queste persone, però non può intervenire il popolo, nel senso che noi stiamo pagando le tasse servono a sopperire queste esigenze anche, cioè è lo Stato stesso che deve intervenire, non il popolo, dice se vuoi trovare un'offerta, ma come un'offerta? L'offerta è la tassa che paghiamo, se poi a questa tassa aggiungo un'altra tassa, allora ci stanno spolpando, qua stiamo arrivando ai tempi del mio ego. Cioè, bisogna finirla con questo fatto delle 2 euro per il cancro, 2 euro per la non so che cosa, 2 euro per le pigne, 2 euro per il Napoli, per la Modesta, 2 euro qui, 2 euro là, e per gli handicappati. Insomma, non ne vogliamo più. Avanti, lo sta passando. Senti. Luca, tu sei? Vieni avanti. Avanti tre. Io sono Riccardo Brezzo, Andrea Urciani, e mi sentiamo. Ho capito, signorina o signorino? Sono io, Andrea. Ti chiami Andrea? Siamo Riccardo, io e Andrea, mi dico, siamo due bambini. Ascolta piccolissimo, voglio dire una cosa. Non avvicinarti molto al microfono, rimani un po' distante parlando, perché vicino al microfono stai distorgendo. Rimani un po' distante, almeno un palmo. Abbiamo capito. Ma dico, vabbè, si è capito adesso. Parla lontano, in maniera che ti capisca. E qui? Da dove stai modulando? Da dove stai modulando? Da 20 centimetri. Sì, d'accordo, ma in quale città o in quale paese stai modulando? Sassari! Sassari, ecco, dimmi una cosa, quanti anni hai, giovanotto? 11! 11 anni, no, è abbastanza grandezza, complimenti, Invece io 12! Mio amico, si chiama Gio Maria e stiamo modulando insieme, guarda che sei un terzo. Ti vuoi associare al nostro discorso? Sì! Bravo, allora noi stavamo parlando di pioggia. Cosa ne pensi di questa pioggia che sta facendo oggi? È un macello, prima ha fatto un giorno fortissimo. Che lì stava piovendo, vero? Sì! Ma tu da dove vieni? Da dove vengo io? Io non è che vengo, non è che sto camminando, sono fermo in una casa dove ho questo apparato dove sto modulando. E sto non mi sto muovendo, sono fermo. E vengo da Sassari. E tu dove sei? Adesso sono a Sassari, in città di Sassari, in periferia. E via! Allontanati però, giovanotto, dal microfono perché stai distorgendo. In che via adesso? Non è una via, è una località in periferia di Sassari, zona Monte Oro. Ma quindi sei molto lontano? È lontano, io vedo tutta la città, ce l'ho tutta davanti a me, è lontano. Lontano cosa significa? Sì! c'è qua vicino dove sono io? Sì. Ho capito. Complimenti comunque, evidentemente anche tu hai dei riferimenti. Dimmi una cosa, non mi hai detto come ti chiami? Andrea. Ah, ecco Andrea, mi sembra che lo sentito poco fa. Senti un po' Andrea, ma tu sei solo in casa o in compagnia, perché mi è sembrato? No, io ho mio padre e mia madre. Hai una specie di come un intuito, mi capisci? Però c'è anche il suo fratellino e io, amico, che oggi sono a casa sua. Come? Il suo fratellino e l'amico, che è a casa mia oggi. Sei un amico più grande di te? Lui ha 11 anni, io 12. E ascolta però, Andrea, ti volevo dire una cosa, ma l'apparato è bello che tu lo accetti, però normalmente alla tua età non è giusto che tu lo accetti, lo sai perché? Perché questi apparati, secondo che problemi ci sono nella strumentazione, potresti creare qualche problema, nel senso che si possono danneggiare, non so se mi capisci. Sì. Gian Maria, chi sei? Tu come ti chiami? Aspetta un attimino, perché adesso ho chiamato... Bene! Gian Maria, l'amico che stavamo usando prima, chi sei Gian Maria? Tu come ti chiami? Io mi chiamo Victor. No, non abbiamo capito bene. Mi chiamo Victor. Victor? Sì. E io mi chiamo Andrea di cognome Ben Ten. Andrea Ben Ten? Ben Maria è tuo amico? Aspetta che lo chiamo, Gian Maria chi sei? Sì, sono qua, Vittorio, sono qua. Mi sta sentendo, sto comunicando con un giovanotto che si è concesso a fare una bella chiacchierata con me, stasera con noi, ma anche tu. Però tu non so se lo ascolti, Sì, sì, ok. Abbastanza bene, ma siccome sto chiacchierando in verticale con una persona qua, è un po' disatteso, per cui, visto, rimango un attimo in corrisce con la persona, capito? Ti arrestano dopo, eventualmente, se coincide. Saluto l'amico che stai parlando, che sta parlando con te. Ehi, Andrea, c'è Andrea con me, grazie. Quanti anni hai? Non so, non mi ha detto da dove stiamo modulando, adesso che in Qatar, però non mi ha detto da dove stiamo modulando. Dove stiamo modulando, Andrea? Tu, quanti anni hai, Victor? Gli anni non si dicono, dai, in frequenza non si dicono gli anni. Non più grande di te, comunque, qualche anno più di te, Ma come ti chiami di cognome? E tu dove stai modulando, perché? Il cognome non si dice mai. Si dice il nome di battesimo si può dire, ma il cognome non si dicono mai queste cose. Hai capito? Quanti anni hai? Quanti anni ho? Quindi baracchino io, vai. Comunque non c'è problema, no? Vai per la televisione. Noi te l'abbiamo detto quanti anni abbiamo. Vai per la televisione, vai, spegni il baracchino. Ok. Ciao. Hai spegni il baracchino, cammina. Ciao Andrea, ben ascoltato, La prossima volta però, quando accendi la radio, sii in compagnia di uno che ti guarda di te, perché te l'ho spiegato, potresti danneggiarlo, perché ci sono gli strumenti che controllare prima di parlare. Sì, invece c'è uno. Sì, c'è uno. Sei d'accordo. Ma noi ce ne stiamo andando. No, ma non è il problema del baracchino. È il problema di chi c'è vicino. È chiaro che c'è il suggeritore, altrimenti che senso ha? Non lo so, ma dal segnale mi sembra... È la prima volta che accendo il baracchino senza ordine, vero? Monello. Vabbè, bisogna avere pazienza anche, Io non glielo ho mai permesso a mia figlia di accendere il baracchino, neanche di avvicinarsi alle radio. Beh, quello perché a parte che è chiusa in una, in un ambiente dove non c'è accesso, per cui l'accesso ce l'ho in tasca, se non ho in tasca quell'accesso non ci può entrare nessuno. E poi non si permettono neanche, perché non è roba, è una cosa di casa, e poi capita che se le stazionare eccetera, fate tutto, poi arrivi lì, ma chi l'ha toccato? Io non so, sono i bambini che dicono sempre di no. Vabbè, la legge era molto chiara comunque. I bambini non possono parlare, non sono problemi miei, ho solo fatto una battuta. Dai. Ciao Vittore, spero che qua ci sono fulmini a tutto andare, le prossime. Perché non ce l'hai la ciabatta antifulmine? In ciabatta o non ciabatta è meglio evitare, capito? Vabbè, certo è meglio evitare, ma se hanno gli strumenti necessari, io sono il vetrino piccolino che mi consente che se per caso capita una, come si chiama? Che parte il fusibile dell'inverter, a suo tempo c'è anche una presa antifulmine, perciò la protezione c'è sempre, gli apparati rimangono indenni. E tu, quando entra dall'antenna non ci sono connettori che possano mantenere, capito? Quando entra dall'antenna non venuta da là, quindi è meglio in queste circostanze staccare il PL. Basta, capito? Ho capito tutto quello che vuoi, ma se per caso capita che dovesse partire così cosa si può partire al massimo il ROS, proprio per esagerare, e all'altro non si può fare niente perché la tensione muore lì. Ma non so, se entra l'antenna ti ho detto che ti parte la radio, prende il finale di ricezione, quindi è meglio evitare, c'è troppo tempo brutto e quindi preferisco stare in quel rix. Ci sentiamo, dai, ciao Vittorio. Ciao, buon sentito, tante cose belle, buon proseguimento di serata, ciao. Ciao, ciao, ciao. La volta scorsa l'ha segnato, adesso mi sto girando un po' di canali, la televisione è piccola, se la metto qua vicino al baracchino la guardo, di quelle ultrapiatte. Ah, ma se la fa 12 o 15? Piccola proprio. E vabbè, l'importante è che si vede, piccola, magari se è grande va bene, è più bello. Perché vede con me, proprio io sto chiacchierando in verticale e più guardando la televisione e ascoltando. C'erano due ragazzini poco fa, addirittura io ho chiuso perché stavo chiacchierando in verticale, ma ci sono ancora. Dove? Su questo canale. Grappa, facciamo venire avanti, non lo so. Ma forse sono in ascolto. Ma c'è stata che ci sono andato tu, hanno fatto la battuta e se ne sono andato, forse se ne sono andato. Non credo ci siano, sembra che uno si chiama Andrea. Scappa le prime armi? Ah, le ragazzine, evidentemente, hanno magari di nascosto all'assiso del baracchino e magari stavano cambiando condizioni, poi dopo è stato... Una persona ha detto a spendere il baracchino e andarsene, e già se ne sono andati e poi si è affacciato di nuovo. Certo. Nuove ragazzi non sanno manco cosa attende nel tuo, ma non sanno neanche cosa vuol dire entrare qua. Non era baracchino, visto che era una caessa, non ti preoccupare, Giomari. Buonasera, Claudio Spaziero. Ok, ciao, buonasera. dicevo, infatti stavo chiacchierando per cercare qua e sto aspettando, ma forse sì. Evidentemente hanno evaso e senza ordine, non è che stavano facendo molto rumore, dai. Oh, hai fatto bene dentro quella frase, dai. Io gli ho detto di scherzare, no, comunque io non glielo mai permesso a mia figlia di accendere il baracchino, l'ho sempre lasciata lontano, per mille motivi, capito? Per non disturbare, per non fare, per non sovramodulare, eccetera. Comunque, ognuno deve fare quello che vuole con i propri figli, ma non credo che un bambino così piccolo possa accendere un HF e mettersi sul canale 10 a parlare. Anche perché segnare qua era 9.50, quindi so anche da dove stava parlando, ma non mi interessa. Io ho fatto la battuta e tu spegni in baracchino, vai a guardare la televisione. Per cui se l'ha fatto davvero, vabbè, se non l'ha fatto non sono problemi miei, sono problemi del padre e della madre. Ciao Anto, buonasera, ben sentito. Vuoi che era il mio, se già l'hai capito, che ce l'ho io, glielo stavo facendo provare, li devo abituare almeno a prendere qualche facciolo del padre, che ce l'ho io dietro il microfono, no? Il segnale già mi è sembrato il tuo, ma che c'eri tu non lo sapevo, insomma gliel'avrei detto, capito, siccome l'altra volta l'ha acceso e si è posto a sovramodulare. No, c'ero io, no, ho detto papà, ma quello lì con un amichetto, aspetta un attimo, l'ha acceso, ho sentito che c'era... Cosa sbaglio, vai, fai break prima, ma noi tre pulici come ti chiami, vuoi dire che ti dici due cose, poi puoi sentire tutto e adesso spegni, no? E fate qui rimasti in ascolto. E vabbè, se ci di tu è un tuo discorso, vabbè. Ma se non ci di tu, allora è diverso. Capito? Ciao, buonasera, ben ascoltato. No, io ho acceso proprio poco fa, ho rispento, perché c'è stata una passata di fulmini da questa parte che... Manco tre accusa, capito? E allora ho spento, adesso l'ho riacceso, mi fate sto usando il 140, così si copia, si rabbia le luci, ma gli altri sono tutte spente, quelle grandi sono tutte spente. Così no, non rischio niente. Avanti, Anto. Oh, scusi un attimo, no, che prendo io, no, che passo, io sto smontando la camera del bambino, devo fare dei lavori e quindi rimango in ascolto, mi ascolto volentieri, ma magari riprendo dopo, capito, non mi riprendo dopo, dai. Ok, dai, ciao a tutti, scusate per i bambini, ma c'è dietro il microfono, sto bisogna cercare a questi figli di fargli prendere qualche passione, i genitori io ne ho tanto, l'ho messo a casa, ma c'è mio figlio, il grande, che nemmeno una cartone ne ho d'ora, quando mi chiede qualcosa sulle mie fatte a posto, vieni figlio mio, dai, riprendo dopo, scusate, comunque mi faccio in ascolto, che sto facendo un lavoro a casa. Ciao Fabrizio. Già va bene, però ci sei tu a insegnare come si usa. Ma quando non mi seduce a termine di alimentazione, avanti a tu. Ah, capo, Fabri, dai, non c'è problema. Io addirittura non l'avevo manco sentito, cioè, me lo stava dicendo Gio Maria, ma io vabbè. Ah, ma cos'è imparato un vizzino, va? Bene. E quindi Gio Maria, un minuto che devo fare una telefonata, ci sentiamo subito, là. Riprendi Gio Maria. Ok, va bene. Bene, ciao Fabri, comunque, buonasera, ben sentito, buon corrente. Non è successo niente, quindi tutto tranquillo. Ok, è così al tuo. Adesso ogni lampo, l'hai risalta? A voglia, perché io me le vedo qua proprio a vista, cioè io faccio la finestra, cioè sto sempre la strada alzata, è così che lo vedo, che faccio un po' di lampe. Faccio una bella attesa, antenna vicino, il baracchino vicino, ma con quello bello di coca, Gio Maria. Io sono sempre anche il fatto, però anche l'apparecchio, sentivo quando facevo il fulminello, si sentiva tac, qui ero in corrente, ma sentivo tutto, e poi ripeto anche io c'ho la finestra aperta e stiamo guardando il più chiacchierando i verticali e così via.